Ieri ci siamo visti appunto con alcuni assessori della Giunta, in particolare pari opportunità, bilancio e sociale. La riunione è stata molto lunga e complessa, nel senso che alla fine siamo arrivati che noi dovremmo portare delle proposte che in qualche modo abbattano il debito che noi abbiamo, perché quelle che noi consideravamo possibili, ovvero la valutazione dei servizi che era stata fatta dalla Giunta Marino, purtroppo non è stata né ufficializzata né protocollata, per cui per loro non è utilizzabile. Quindi dovremmo vedere se rifare una nuova valutazione dei servizi, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo sostenuto. Diciamo che quindi siamo stati rimandati a fra 10 giorni, dove noi dovremo portare queste nuove proposte. Loro ci hanno espresso una grande solidarietà politica, perché questa una soluzione si deve trovare, però saremo a vedere. Quindi insomma le tue percezioni, le vostre percezioni sono state comunque di apertura nei confronti? Sì, da un punto di vista, diciamo così, di espressione di solidarietà, questa c'è stata, però poi in realtà non abbiamo trovato alcuna soluzione in quella riunione e quindi ci è stato proposto di ritornare tra una decina di giorni, e quindi o lunedì o martedì prossimo, dove noi presenteremo le nostre proposte. Quindi come avete intenzione di muovervi adesso nel formulare delle nuove proposte? Guarda, sì, allora ieri sera noi siamo tornati alla casa dove tutte le donne delle associazioni e non, cioè nel senso che c'erano anche giornaliste, persone esterne eccetera, si aspettavano per sapere i risultati, e questo è stato molto bello perché così non ci siamo sentite da sole in questa cosa, e insieme abbiamo detto che ora costituiremo dei gruppi di lavoro e dei tavoli per intanto portare delle proposte che poi magari faremo in modo più ampio e più articolato. E quindi così, quindi noi aspettiamo adesso questo nuovo incontro, sperando che sia in qualche modo, diciamo, che ancora porti avanti queste nostre richieste e che vengano recepite. Apertura da parte della Giunta, ma anche grandissima solidarietà dalle persone che sposano un po' la causa della Casa Internazionale delle Quello, Donne. Assolutamente, stamattina è uscito di nuovo un articolo di solidarietà sul Manifesto, ci hanno chiamato veramente in tantissimi, anche su Rai News 24, insomma, anche a livello, diciamo, di media c'è un forte sostegno, ma anche da parte di tutte le donne del Movimento Non Una di Meno, di tutte le associazioni, insomma il sostegno è, diciamo, grandissimo. Infatti ho visto, quindi, che anche è partito un hashtag su Twitter, La Casa Siamo Noi, e è stata messa online una petizione. Insomma è caldissima la solidarietà che state ricevendo. Sì, speriamo che si riesca a trovare questa soluzione. Noi siamo fiduciosi ovviamente e comunque non molliamo.